Sono diversi giorni che ci occupiamo della questione del voto fuori sede, non solo all'interno degli organi, ma anche con diverse manifestazioni che sono state organizzate nella cittadella universitaria. Il problema del voto fuori sede, che da sempre dimostra una grande immobilità da parte del governatore e soprattutto, mi permetto di dire, anche un po' di malizia che io vedo nella non previsione fino ad adesso della possibilità del voto fuori sede anche per questa tornata elettorale, interessa soprattutto i grandi atenei del nord, che attraggono non solo da un punto di vista studentesco ma anche da un punto di vista di tutto l'apparato del lavoro in somministrazione ma anche strutturato dell'Università di Bologna, che naturalmente provengono da diverse parti del paese. Questa è una questione che una volta per tutte va risolta soprattutto in un appuntamento così tanto importante come quello del 22 e 23 marzo, in cui si tocca la nostra carta costituente, ed è giusto ed è imprescindibile, questo sempre ma a maggior ragione nel 22 e 23 marzo, eliminare ogni ostacolo che può appunto impedire alle persone di tornare a casa e votare con facilità. Questo noi lo abbiamo detto nelle piazze, lo abbiamo ribadito in quella mozione che si ricordava prima, che è stata approvata all'unanimità, proprio perché è dell'indice della grande attenzione da un punto di vista studentesco su questo tema, proprio perché gli atenei del nord hanno una grande responsabilità su questo. Sono attraversati su poli di attrazione dei fuorisede e quindi è importante che loro prendano parola, proprio per pubblicamente dire che sono dalla parte dei propri studenti, dei propri lavoratori, di chi attraversa l'università, e per questo motivo probabilmente il 22 e 23 marzo non sarà nelle condizioni di poter votare. Questo chiediamo al rettore, riconosciamo un grande valore politico ad una dichiarazione, ad un'uscita, ad una presa di posizione dell'Università di Bologna sotto questo punto di vista, proprio in difesa, forse se vogliamo, dei 40.000 studenti, studentesse, lavoratori e lavoratrici che in questa maniera si vedono negato il diritto di voto.